Direi di presentarci. Siamo con Elisa Del Prete di NOS Visual Arts Production. E allora, dopo una prima conversazione di approfondimento, entriamo in mostra. L'ispirazione di questo artista è dettata da un aspetto urbano, dall'emozione, da un tutti i tempi, come definisco anch'io. E cosa si potrebbe aggiungere per fare un identikit di questo artista lituano? Ma sicuramente che appunto viene dai graffiti, dalla street art, però una grande consapevolezza anche della forma scultorea, e questo ci introduce anche alla mostra, che è un grande diorama in cui ciò che è reale e ciò che è posticcio, scenografico, finto, si mescolano. Sicuramente è degli artisti dell'ultima generazione che si colloca nell'eredità della pellicola, di tutta la tradizione, diciamo, lituana, che lavora in pellicola. Infatti lui lavora o in 8 mm o in 16 mm, in questo caso presentiamo un film che è in super 16 mm, ed è molto importante questo perché anche come usa la pellicola Kipras è totalmente personale, nel senso che il film per lui è l'occasione di sbagliare, l'occasione di incontrare l'errore, è l'occasione di mettersi in relazione con la pellicola, che diventa proprio materia quasi scultorea. Anche nel film, che è quello che abbiamo prodotto in questi 4 anni di residenza, non c'è uno storyboard, non è pensato come una narrazione che ha un filo, un inizio e una fine, ovviamente ce l'ha, ma è proprio un collage di momenti di ripresa dal vero, found footage o anche stop motion di ricreazioni in studio. E quindi l'idea che mettere in discussione un po' quello che è la realtà. Lui lavora su questa idea di post-verità, sul vuole raccontare un po' la fragilità anche del nostro tempo, ed è quello che anche ci auguriamo succeda in questa mostra, che, lo anticipo, è abbastanza dissonante, è disarmoniosa, non è sicuramente accogliente. Vuole puntare l'attenzione sul generare una dissonanza, e anche rispetto a questo l'invito che faccio anche a chi viene è: prendetevi il tempo proprio di stare dentro, sedetevi per terra, entrate dentro i dettagli, non interpretatela come un collage di sculture, ma come proprio un ambiente in cui stare e far andare liberi i pensieri di quello che ogni angolo vi suscita. E certo, anche una bella immagine, da quello che ho percepito, per particolarità legate alle città, la nostra, Vilnius, e anche si può poi estendere il discorso a livello urbano ovunque. Sì, Kipras, un aspetto molto interessante è come lui esplora le marginalità, luoghi ai margini, le infrastrutture, tutto ciò che sostiene la nostra vita quotidiana e che noi non vediamo. Per questo l'orazione dei canali, che è stato un po' il focus e l'incipit della residenza, e attraverso questa pratica che è la psicogeografia e la deriva urbana, attraverso queste passeggiate ed esplorazioni della città, lui fa emergere una Bologna, per esempio, che noi non conosciamo. Questo poi è l'ultimo film di una trilogia sul tema del soccorso, del salvataggio, che oggi è anche un tema molto attuale. È nato durante il Covid, ovviamente, questa trilogia, ma oggi diventa ancora più pregnante questo tema del chi salva chi, da che cosa, no? Quali sono i ruoli. E quindi anche Bologna diventa la protagonista, insieme a Vilnius e un'altra città della Norvegia, di una trilogia sul tema del soccorso, che indaga, in questo caso mette al centro l'elemento del fuoco, come nel secondo film quello dell'acqua, e come nel primo quelli che sono invece gli strumenti, le ambulanze, gli strumenti proprio anche estetici, l'estetica che ricolleghiamo al soccorso. Perfetto, io ti ringrazio tantissimo e ti auguro una buona giornata. Grazie a voi.